la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Questa è la storia di una donna la cui vita ha sterzato all'improvviso. C'è scritto questo sulla copertina del libro di Maria Perosino, che si intitola Io viaggio da sola, edito da Einaudi. La sterzata è la perdita dell'uomo amato. Erano innamorati quando il compagno morì. Quando tornò a Parigi, nel ristorante dove aveva mangiato con lui le ostriche, Maria decise che era meglio entrare e mangiarle da sola per ricordare un momento felice, piuttosto che non entrare e non ricordare. C'era in quella scelta una forza inaudita che ha permesso a Maria Perosino di aprirsi da sola le porte del mondo. Da quel giorno, anche per questioni di lavoro, Maria ha viaggiato spesso da sola. Ma in realtà quello che credo è che il viaggio è uno stato d'animo più che uno stato geografico. Per cui ho cercato in qualche modo di raccontare una storia che è una storia di vita attraverso non tanto dei luoghi ma dei transiti. A me diverte moltissimo viaggiare da sola, ma in fondo mi diverte anche vivere da sola. E comunque nella dimensione del viaggiare c'è una possibilità continua di entrare in relazione con altri luoghi e con altre persone, che è la cosa che mi interessa di più. Io infatti non ho mai fatto viaggi particolarmente esotici. Il viaggio che a me diverte, che mi piace, è un viaggio dove io posso portare in qualche modo nel mio bagaglio o nel mio trolley la mia vita e farla vivere altrove. Io viaggio sicuramente, poi se ci sono i musei, se c'è una cosa interessante la vado a vedere, ma a me quello che interessa è vivere le città e viverle in questa dimensione appunto un po' sospesa che dal viaggio, per cui tutto è possibile, sono possibili gli incontri, sono possibili delle geografie nuove, sono possibili soprattutto delle geografie emotive nuove, è la cosa che mi ha particolarmente affascinato e anche in qualche modo aiutato in momenti complicati della mia vita. Da un'ora sono seduta qui pensando che la prima volta di Maria Perosino nasce dunque da un dolore ed è una prima volta che accompagna questa donna in un viaggio che deve fare necessariamente da sola. Oggi, a distanza di tanti anni, da quella prima volta, da quel primo giorno in cui decise che era ora di sentire il mondo anche attraverso il suo vissuto, Maria ha scritto un libro che a volte fa anche ridere, un libro che è una prima volta e che è dedicato a tutte le donne che viaggiando sole devono affrontare qualche fatica in più degli uomini. Ma allora sicuramente qualcuna di più ne ha, e tanto è vero che ne ho scritto, sono in realtà difficoltà pratiche. Soprattutto in Italia vale ancora il fatto che una donna che arriva da sola in un ristorante, e non si capisce perché una donna non dovrebbe mangiare in un buon ristorante, viene messa in un tavolo d'angolo. Vale il fatto che una camera singola costa molto più della metà di una camera doppia. Detto questo, in realtà il mondo è molto più partecipe di quello che uno si immagina, e per cui io nella mia esperienza raramente ho avuto paura. Ogni tanto mi è successo, credo che sia successo a chiunque, ma questo potrebbe succedere anche nella città in cui vivo. La maggior parte delle volte sono successe invece degli incontri molto positivi, cioè c'è una sorta di partecipazione rispetto a una donna che viaggia da sola. E forse c'è anche un po' un elemento di seduzione, di fascino. Non è ancora del tutto scontato, per quanto viviamo nel mondo occidentale, il fatto che una donna appunto vada al ristorante, vada al bar, si comporti normalmente anche quando è da sola. E questa situazione leggermente anomala ogni tanto provoca qualche problema, il più delle volte è spunto per degli incontri e di relazioni che possono diventare molto interessanti. Ecco, in queste relazioni, in questi incontri di cui lei sta parlando anche molto in questa intervista, le è capitato frequentemente di incontrare altre donne che viaggiavano sole? Cioè succede anche questo, ci si riconosce, ci si trova? Ci si riconosce, ci si trova, per esempio in treno mi succede spesso che se ci sono donne che viaggiano da sole e che hanno in qualche modo degli atteggiamenti sintonici con quello che io sono, vuoi perché stanno leggendo un libro, stanno leggendo dei giornali, perché fanno una telefonata che magari incuriosisce, perché vanno al vagone ristorante del treno, insomma per una serie di elementi che in qualche modo sono delle tracce di riconoscibilità, ci ritroviamo e si chiacchiera. Quello che trovo è però una grandissima capacità di autonomia delle donne che vanno da sole. Ecco, questo nonostante i pregiudizi, nonostante si pensi che le donne sono timide, le donne hanno delle difficoltà, le donne hanno delle difficoltà a caricare le valigie, hanno delle difficoltà a spostare pesi, ma non hanno delle difficoltà di relazione, anzi ne hanno molto meno degli uomini. Poi basta avere un trolley leggero, come diceva lei, e anche quella difficoltà si risolve. La prima volta. La prima volta. Che non viaggio leggera e che viaggio da sola, mi accorgo che le persone mi guardano con malcelata condiscendenza, come se stessi dicendo che vado in spiaggia con i tacchi alti o che le pellicce si indossano perché sono capi biologici. Eppure sono anni che convivo con questo simoro, anzi ormai ci sguazzo come nella vasca da bagno. Ci ho persino fatto amicizia. Il fatto è che quando parto mi voglio portare dietro la mia vita e questa, se purtroppo per fortuna non so, ha un peso e una dimensione che non cambia in rapporto alla durata del viaggio, né riesco a prendere in considerazione l'ipotesi di lasciarne un pezzo a casa. Maria Perosino è una storica d'arte, nata a Torino e vive a Milano. Ha una storia d'amore bellissima che si conclude però con la morte del compagno, come racconterà nel suo libro Io viaggio da sola. Dunque, lui è morto e io ho cominciato a viaggiare molto e da sola. Entrambi, il molto e il sola, sono stati almeno all'inizio effetto della stessa causa. Poi ho anche cambiato lavoro e viaggiato ancora di più, ma questa è un'altra faccenda. Ho cominciato a viaggiare perché volevo fuggire e perché volevo costruire. Sul fuggire non credo valga la pena spendere tante parole. Non è una news da prima pagina che chi è ferito cerchi delle vie di fuga. Qualcuno dorme, altri ricordano, altri preferiscono la chimica. Io cercavo di mettere ogni settimana quanti più chilometri riuscivo tra me e la città dove allora vivevo, Torino. Invece di rannicchiarmi in un letto o di stendermi sul lettino di uno psicanalista, zizzagavo tra le strade asfaltate e ferrate che attraversano l'Italia. La vita di Maria, attraverso il viaggio solitario, che è appunto una sorta di fuga, riemerge dal dolore lentamente. Vale il fatto che quando uno è da solo è più disponibile rispetto al mondo, intanto perché non ha qualcun altro dove stare, in secondo luogo perché forse ne ha anche un po' bisogno. Cioè, io quello che credo, e credo anche un po' di aver scritto, è cercare di raccontare il fatto che il bisogno degli altri non è una cosa di cui avere imbarazzo, di cui vergognarsi, di cui aver paura, è una cosa bella e che può essere lo spunto per scoprire delle situazioni. Banalmente, se io sono in viaggio con un fidanzato o con un'amica, probabilmente la mia attenzione è presa in gran parte dalla persona con cui sono. Viceversa, se sono da sola ho una disponibilità mentale e anche temporale completamente diversa nei confronti del mondo. E questo secondo me è il bello del viaggiare da soli, che crea una dimensione in cui l'altro viene accolto e nello stesso tempo forse crea un bisogno, per cui al terzo giorno che si è da soli in viaggio si ha bisogno di far due chiacchiere, quindi ci si inventa i modi per relazionarsi con gli altri. Se si vede un'altra persona che sta parlando di calcio, anche se io non capisco niente di calcio, mi viene da chiedergli: ma di che partita state parlando? Come funzionano queste cose? Stanno vincendo, stanno perdendo? È una cosa che non farei mai se fossi in compagnia di un'altra persona, ma il fatto di farla mi crea un modo, crea un ponte in qualche modo, con nello specifico l'altra persona, ma più in generale col mondo, con la città, con la situazione geografica che sto attraversando in quel momento. Senta, ci racconta l'aneddoto che ha scritto anche sul libro di quando era al ristorante da sole per vendicarsi del fatto che continuavano a metterla in un posto non tanto bello, ha finto d'essere una critica. Com'è andata? È andata che io ero ero a Pisa e avevo fatto un lavoro faticosissimo, ero stanchissima e ho deciso di andare a mangiare da sola, nonostante avessi delle persone che mi chiedevano: andiamo stasera a mangiare insieme, e ero stanca, ho detto no, ho detto a me stessa: voglio andare a mangiare bene, voglio andare a mangiare da sola e poi voglio andare presto in albergo. Vado nel ristorante, erano le 8:15, bassissima stagione, il ristorante era deserto, mi danno un tavolo sfigatissimo, perché nello spiffero vicino a una tavolata di 20 persone, insomma una situazione, dicendomi che tutto il resto era prenotato. Allora io ci ho messo un attimo, perché ero appunto molto stanca, per cui ci ho messo un attimo a capire che in realtà non era affatto vero che il ristorante era tutto prenotato. La verità vera era che secondo il titolare del ristorante, una donna da sola avrebbe mangiato un'insalatina e bevuto un bicchiere d'acqua naturale e quindi non valeva la pena darle un tavolo. Mi sono molto arrabbiata, ma siccome una delle mie regole è il fatto che non ci si arrabbia con i ristoranti prima di aver mangiato e prima di aver pagato il conto, perché altrimenti la cosa diventa molto rischiosa, a quel punto ho tirato fuori un taccuino e ho cominciato a fare domande moleste al cameriere, al titolare, alle cose, cominciando a chiedere: ma che vini avete, ma come ve li procurate, quali vitigno è questo pesce, ma da quale mare arriva, cose di cui io in realtà ho qualche sentito dire ma non capisco niente. E mentre questi passavano sempre un po' più preoccupati, avevo tirato fuori un taccuino e facevo finta di appuntare tutte queste notazioni. A quel punto il titolare è credo che abbia avuto timore, realizzato che io, insomma, immaginato che io fossi una critica gastronomica, e a quel punto lì mi ha servito per tutta la cena con grandissima gentilezza, anzi persino eccessiva e a sua volta quasi molesta, mentre io continuavo a fare la parte della persona che diceva piatto per piatto, prendevo un appunto e chiedevo notizie. Alla fine sono uscita avendo pure uno sconto sul conto, e con lui che mi chiedeva scusa dicendo: ma sa, tutte le volte qua prenotano ma poi non arrivano, la gente non ci si può più fidare. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. La prima volta si conclude qui. È una prima volta che vogliamo dedicare a tutte le donne, sperando, forse ingenuamente, che non ci siano più prime volte di violenza e umiliazione. Questa prima volta è per tutte noi, perché si abbia la forza di scegliere al di sopra dei pregiudizi e dei luoghi comuni. Buon viaggio a tutti da Cristina Carpinelli. Se volete scrivermi, l'indirizzo è laprimavolta@radio24.it.